Mai sino a 15 minuti che sono arrivato. Stanco molto. Per oggi sì, domani, c'è un altro giorno. Ma chi è un decreto? Sono entrato presto oggi. Sono entrato abbastanza tardi. Soliti bordelli e soliti rientri. Vabbè, oggi lui diceva che rientro. Però sempre la faccia. Sempre la faccia. Comunque finita la vecchia, no, molto per manca ancora. No, ma non è che abbiamo visto che abbiamo fatto il disegno in terra. Capito, abbiamo fatto una cornice in terra. E adesso è mancato tutto un placcaggio a fare, capito? Tutto un placcaggio, ma pensiamo che verso mercoledì, giovedì massimo è tutto a posto. Ho capito. Ma c'è un bel freschetto, bello. Come piace a me, stanotte si dorme lo stesso, non sto riposando la notte. Però stasera c'è questo umido, non ho riato un coreale, ho detto a Piccicoli, non sono arrivato, non ho fatto male la luce. E sono rimasta la chiazza rossa qua, per la puntura della Vespa, che è la mazza delle varie. Non ho stato messo la moglie che non è passata. È maledetta la Vespa, è maledetta, chiama chiama. Però io è tutto a posto tra di. Sì, in linea di massima sì, qualche problemino stamattina di livelli, le balle varie. Abbiamo fatto un po' di regolazioni, adesso vediamo domani mattina come siamo messi. E un bel richiesto l'acqua, c'è un bel, soprattutto nella zona di Sentino. Non basta, purtroppo le stazioni di pompaggio più di quello non possono dare, se no saltano in aria i bombi, e già vi va, è un bel gente. Tanto c'è il capo Falcone che è pieno. I villaggi di Sentino sono pieni. In più c'è anche un alto consumo qua a Sassari, quindi vediamo domani com'è la situazione. Andrà bene. Vabbè, ci sono casi di turisti, però senza ombra di dubbio. I turisti e poi gente che ce n'è anche di Sassari, non è che facciamo la casa lì. Ce n'è parecchi. Quindi adesso magari sono andati già a fare la stagione. Ma bene il lutto, quindi sai, ogni casa ha diritto di avere la sua percentuale. E un bel consumo ci sono comunque. A parte non se ne parla dei lavori e delle condotte con la droga, ma consumi già c'è. Comunque già abbiamo fatto un po' di manovra, un po' di regolazioni. Vediamo domani mattina. E tu, la macchi domani sì? Sì, io la macchi, più la placaccia. Vabbè, senz'altro, domani c'è un altro giorno, poi ci sarà la stoccata da fare, da pulire e già va bene. Sì, piano, e da dove va? Ma come si c'è abitato, andiamo là. Io l'ho sentita. Cercherate a fare la settimana Ferrarosta. No, io sono libero domenica e lunedì. Vabbè, mercoledì mi tocca riposo settimanale e poi sono libero domenica e lunedì. Salvo complicazioni. Se sono libero bisogna picchiare un ciolo al muro. Ma speriamo bene noi. Vediamo, aspetta che ho mio moglie. La va tranquilla. Eccomi qua. Ci avete sentito la pioggia stasera, però. non sono rientrato, mi stavo lavando. Mi è apparso. Ma c'è un bel po' di guerra stasera. Oh, è già da stamattina. Da stamattina perché... Lo sai, io quando volte faccio compagnia a cosa Gigino, Gigino Vulcano, a Gianni Cipone, non lo partono. Però stamattina talmente c'era quel REM che non mi sentivo tanto bene. Allora già si dica. Per dirti un bacetto del REM, non ti sento tanto bene. Se non vuoi 62. No, mi ha dato molto adesso perché di solito con questa radio avremo sempre 2-3 di quel REM, non di più, oggi è 5. Evidentemente questo vento che c'è, questo maestralotto sta portando un po' di perturbazione, ma già si sta bene comunque. Sì, no, sul lato del prima si sta più che bene. Da stanotte ci sono le meteoriti che scendono dal cielo. E siamo fortunati, si vede qua alla grande, se siamo fortunati, se no saranno fortunati che sarà più vicino le stelle cadenti, no? Così non è per telegiornale, poi le stelle cadenti sono dappertutto, io vado a pescare, per esempio lì in Argentina non c'è stato modo che non ho visto la stella cadente, sempre di vedo. Linea di massima qualcuna scende sempre anche quando non è il tempo giusto, però dice domani la radio da come darte la calente, la radio che agì prima io. No. Ah, è l'Ugarese, dopo qualche tre di l'Ugarese. Stava sistemando il computer a una sua amica. Non vedo il computer io. Non è... Non vedo il computer oramai. Siamo un po' in generale un po' tutti così. Non ce n'è molta gana, amica. Io perché da quando c'ho la stanza mia, c'ho televisione, computer, c'ho tutto, quindi... Mi davo qua, vediamo, mi fanno fumare qui dopo la finestra e sono un po' più presente, ma se no tu pensi io che avrò chi? No. E perché mi rilascio un po' così qua, in questa stanza. Se non se ero più a Pascoli, mica centrato.